9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Allo zoo comunale. Buongiorno cari ascoltatori, buon 7 dicembre, oggi è Sant'Ambrogio. Perché dopo lo zoo comunale risparmio le pillole oggi? Ma perché è inutile? Ma perché oggi c'è un solo enorme, gigantesco fatto al centro della vita italiana, dei giornali, di tutto. Che cosa? L'inveramento per l'ennesima volta nella parabola di Silvio Berlusconi, di questo Silvio Berlusconi declinante, ma che non accetta di fare i conti col fatto che politicamente è finito. Può tornare, può prendere i voti, può buttare per aria il governo Monti, può far perdere credibilità all'Italia, può regalarci la lista ristretta di quelli che hanno ormai una credibilità nel suo partito, cioè quelli che gli dicono no, Giorgia Meloni, Crosetto, Pisano, pochissimi, sono 5 o 6 in tutto. Ma perché? Perché c'è una specie di cosa psichica oramai in questa roba. Quindi voi telefonateci, perché dopo le 9:30 mandiamo in onda le vostre telefonate. Sono ansioso di capire come la pensate, perché questo è il fatto di oggi. Riflessione di Enno Flaiano, che si attaglia in pieno a Silvio Berlusconi. La società va trattata tenendo conto che è composta da persone sensibili. A tre cose: corruzione, adulazione e disprezzo. Usando queste tre leve non dovrebbe essere difficile dominarlo. Vecchi tempi, bei tempi, quando il nucleo iniziale nel 94, che nasceva della sedicente rivoluzione liberale, di quello che adesso è diventato un accrocchio da psicanalisi, invocava la libertà. Libertà è un tema centrale, è un tema centrale per questo paese, è un tema centrale ovviamente in tutto il mondo, ma c'è un aspetto particolare della libertà che in occasione, oggi che è Sant'Ambrogio, quindi festa di Milano, è con noi Sua Eminenza l'Arcivescovo di Milano, Angelo Scola. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a lei e a tutti. E Sua Eminenza Scola ha deciso, come ogni anno con Sant'Ambrogio, dalla cattedra di Sant'Ambrogio c'è un discorso, uno dei tanti, ma diciamo il più solenne, uno dei tanti che nel corso della sua esperienza pastorale ogni anno l'arcivescovo rivolge ai milanesi, ma il più importante, perché è il giorno del santo, per così dire, quest'anno Sua Eminenza l'ha dedicato al 700° anniversario dell'editto di Milano. L'editto di Milano fu quello con cui l'imperatore Costantino, di fronte alla tradizione pagana dei secoli precedenti, decretò l'inizio della libertà per la religione cristiana. E quindi da qui l'arcivescovo Scola ha rivolto un messaggio ai milanesi sul tema della libertà religiosa. Perché la scelta del tema della libertà religiosa, Eminenza? È proprio in connessione, come lei ha detto, a quell'inizio di libertà che fu in ogni caso l'editto di Costantino e di Licinio. Evidentemente lungo i 1700 anni l'evoluzione del problema è stata dolorosa e complessa, e ciò che mi ha sorpreso nel preparare questa riflessione è vedere come questa delicata problematica sia tutt'altro che risolta, ma che presenti oggi nella situazione di forte mutazione in atto in questo millennio taluni nodi problematici che meritano di essere attentamente affrontati da parte di tutte le realtà in campo, di tutte le visioni del mondo in campo, proprio per garantirci una laicità buona, una laicità sana, nella quale realmente la libertà di tutti sia valorizzata, soprattutto nella sua dimensione religiosa, che siccome per sua natura, ponendo direttamente o indirettamente le domande ultime, più radicali sull'uomo, da dove vengo, dove vado, cos'è il dolore, l'amore, c'è una vita dopo la morte, eccetera, rappresenta, a mio modo di vedere, il vertice della libertà. Questo è un po', diciamo, il terreno su cui io ho inteso muovermi, ovviamente in un tempo assai limitato e quindi senza probabilmente riuscire a dire in maniera esauriente tutto ciò che avrei voluto dire. Allora, prima di arrivare al punto della centralità e dell'importanza della libertà religiosa in un mondo che oramai è multiculturale, che con l'immigrazione ovviamente pone evidenti problemi anche a casa nostra, di imparare come si fa, ma che poi in una parte del mondo perseguita terribilmente ancora la religione. Un'obiezione, perché anche oggi, stamattina, già commentando il discorso che io ieri ha rivolto ai milanesi, Vito Mancuso su Repubblica scrive: sì, però, insomma, in realtà, prima che questo valore della libertà religiosa entrasse veramente a far parte del magistero cattolico, per lunghi secoli, dall'editto di Teodosio del 380 fino alla lotta degli illuministi, in realtà poi i cattolici e i cristiani si sono sterminati nelle guerre di religione. Ma in effetti, e questo è uno degli elementi contraddittori a cui io non ho potuto, come ho detto peraltro, probabilmente Mancuso non era presente, e ho detto peraltro un argomento in cui non potevo entrare stante la limitazione del tempo, ma certamente non si tratta di disconoscere questi dati, anche se bisognerebbe poi su ognuno di essi pronunciarsi con molta attenzione, ma se ne possono aggiungere anche altri. Per esempio, è abbastanza paradossale che la riforma protestante in un certo senso non solo non ha contribuito a risolvere adeguatamente il problema, ma per certi aspetti l'ha accentuato attraverso la tesi del cuius regio et eius religio, insomma, che poi ha finito per poter essere almeno indirettamente anche la base per un discorso che si è drammaticamente verificato sullo stato etico. È chiaro, appunto, in un certo senso quello che io ho voluto dire, soprattutto ciò a cui sono stato portato a riflettere, spero che su questo tema di avere la possibilità di pubblicare qualche cosa nei mesi futuri di un pochino più articolato, è che non possiamo dare questo problema come ovvio e scontato. Bisogna realmente avere il coraggio di affrontarlo di nuovo e di ridefinirlo nel contesto della necessità di una nuova cultura sociale e politica di cui questa transizione al nuovo millennio mostra da tutte le parti la necessità. Allora, uno degli aspetti centrali, venendo ai problemi di oggi, è in una società come la nostra, ma riguarda tutte le società occidentali, quelle occidentali che, diciamo, hanno radicato un'esperienza di democrazia e di libertà. Però qui il problema adesso è diventato quello di come declinare, di fronte alla libertà che lo Stato deve garantire, il fatto che lo Stato ha una neutralità sempre più accentuata, e questo, lei dice a un certo punto nel discorso, il rischio è che si diventa, per così dire, come indifferenti di fronte a una pluralità di agenzie etiche, si riduce la religiosità ad agenzie etiche e lo Stato le guarda tutti, dice: io faccio accordi con tutti, fate un po' ciascuno come vuole. Esatto, lei ha perfettamente ragione, ha colto il nucleo, cioè vale a dire, sono già in atto in Europa e non solo, anche nel nostro paese, delle nuove riflessioni sul concetto di laicità. E io stesso ho parlato più volte di questo tema. La mia critica si appunta sul cosiddetto modello francese della laicité, così come è nato all'inizio del XX secolo e così come si è andato sviluppando. Per spiegarmi bene vorrei sottolineare questo dato. Oggi circola la convinzione che nelle nostre società civili europee ci sia un grande scontro tra fedi religiose. Questa valutazione importa un poco un giudizio che entro certi limiti è valido per altre situazioni del continente, come l'Egitto, come il Medio Oriente, e come altre realtà. Invece il contrasto più radicale che è in atto nelle nostre società europee occidentali è tra una visione secolarista della vita, cioè una visione che a priori esclude ogni riferimento al trascendente, e invece una visione religiosa della vita. Allora, a me sembra che se noi analizziamo attentamente quel che è successo nella storia a partire dalla laicità di concezione francese, vediamo due fatti. Primo, che questa visione secolarista non è affatto neutra, ma appunto è una visione tra le altre visioni, legittima in una società plurale, È legittimo che uno rifiuti e dica io non voglio coltivare il diritto e il dovere dell'obbligo di cercare la verità, io sono agnostico, io sono ateo, eccetera, eccetera. Ciò che a me pare molto problematico e su cui propongo di tornare a discutere è che surrettiziamente lo Stato, in nome di una indifferenza che la laicità francese ha definito come neutralità, di fatto faccia passare questa visione secolarista della vita, che è una tra le altre, finendo così per volenti o nolenti limitare le altre. E qui ci sono dei dati, professore, che mi colpiscono. Come mai tutta la conferenza episcopale americana per la prima volta si è ritrovata unita ad accusare Obama di ferire la libertà religiosa degli americani? Stiamo parlando di quella società in cui le religioni furono valorizzate, come ebbe a dire Tocqueville, e tutti i vescovi dicono che quando Obama con la sua nuova legge circa l'assistenza sanitaria impone a tutte le istituzioni, comprese le istituzioni cattoliche, di obbliga i proprietari di ospedali, di scuole, a garantire un contratto mutualistico in cui sono ricompresi la contraccezione, l'aborto e le pratiche sugli embrioni, i vescovi dicono qui si lede la libertà religiosa, perché la fede nostra, lo dico, la fede cattolica, essendo una fede dell'incarnazione, implica un accompagnamento dell'uomo dentro la concretezza della sua vita. Non può non occuparsi, come sempre ha fatto, di differenza sessuale, di amore, di vita, di salute, di giustizia e di benessere. Ma a casi analoghi si stanno verificando, per esempio, anche in Inghilterra, dove un certo numero di agenzie cattoliche che da anni si occupavano di dare in affido a delle famiglie dei bambini che ne avevano bisogno, si vedono costrette a chiudere perché una legge li obbligherebbe a dare in affido anche a coppie omosessuali i bambini. Oppure, se non fosse un pochino provocatorio e ridicolo, proprio 2 o 3 giorni fa un sottosegretario ai beni sociali francesi ha parlato della necessità di requisire tutti i locali di natura ecclesiastica che sono liberi per metterci i poveri. Mi spiego, ritorniamo a qualche cosa che ha un sapore napoleonico, ignorando completamente l'enorme quantità di azione di sostegno ai bisogni dei poveri che la Chiesa francese sta facendo. Giustamente il Cardinale di Parigi si è ribellato. Lo stesso Parlamento europeo sta cominciando a discutere sul fatto che l'obiezione di coscienza, per esempio, sarebbe un istituto non accettabile dentro una certa concezione della cosiddetta neutralità dello Stato. Quindi se io non voglio enfatizzare questi segni, voglio dire che questo tema talmente delicato e talmente difficile ormai lambisce anche le nostre società europee avanzate. Non dobbiamo essere superficiali, dobbiamo ripensare in maniera larga che cosa sia la giusta laicità, la giusta aconfessionalità dello Stato. E secondo me quella giusta è quella di uno Stato che, guardando la società civile, resta spalancato a 360 gradi a tutte le proposte che sono in campo, favorisce il confronto tra tutte queste proposte, è teso ad un riconoscimento positivo di vita buona su cui lo Stato non può non fondarsi. Quindi io sono molto lontano dal tornare indietro. E poi ho ribadito con grande chiarezza che è legittima in una società plurale la posizione di quanti si rifiutano di accettare il bell'invito del Concilio Vaticano II al dovere e al diritto di cercare la verità, anche se personalmente reputo che se uno non persegue questo, che è il caso serio della vita dentro i rapporti di tutti i giorni, parlare di libertà religiosa si riduce spesso a un formalismo e quindi a una parola vuota, quindi certo. Questa è un po' la mia idea. Posso chiederle in quei sì. minuti ancora che ci restano due cose insieme, le faccio insieme queste due domande sì, così le do il tempo in 5 minuti di rispondere. La prima è una sua valutazione su questi ultimi anni di vita pubblica italiana, su come temi, per esempio, che sono andati molto sui giornali, hanno fatto molto discutere la gente, mm-hmm. che ne so, l'IMU, la bioetica, queste cose qui, dal suo punto di vista di pastore cattolico, rispetto al tema della libertà religiosa, rilevano che è una minoranza quella che dice è ancora la Chiesa ad avere trattamenti privilegiati, oppure nel suo sentire il popolo, per così dire, qui a Milano e altrove dove ha avuto l'esperienza pastorale, ha degli effetti ancora sui temi di una libertà che viene concepita come privilegiata? La seconda cosa è come mai nei paesi occidentali poi facciamo tutti questi dibattiti sulla libertà a casa nostra e non ci muoviamo mai di fronte a tre quarti del mondo dove la libertà di conversione, la libertà religiosa non esiste per nulla. Tutte le due domande sono molto importanti e le sono grato. Sui temi che lei ha toccato bisognerebbe operare delle distinzioni. Appunto, la mia visione della vita buona e della nuova laicità si gioca tutto nel paragone incessante all'interno della società civile, paragone che deve nascere da un modo di porsi dei soggetti religiosi o dei soggetti che comunque portano una mondovisione. Questi mondi devono autolegittimarsi attraverso una soggettività pubblica che non cerca privilegi di nessuna sorta. Bisogna poi andare a vedere caso per caso se si tratta di un privilegio o meno. Per esempio l'IMU alle scuole libere di ispirazione cattolica, soprattutto alle materne, pensi che in Lombardia o in Veneto quasi l'80% dei bimbi va alle scuole materne tenute da parrocchie o da enti religiosi, a me sembra obiettivamente qualche cosa di tendenzialmente ingiusto, tanto più che i genitori che mandano lì i loro bambini pagano già una retta, oltre a pagare le tasse per tutti, quindi diverso può essere il caso dell'IMU. Ma comunque nessun privilegio, la forza delle religioni e delle mondovisioni deve giocarsi in una società civile che non deve essere da parte degli organismi statuali neutralizzata, perché queste forze, quelle religiose e quelle proprio delle mondovisioni, sono estremamente creative e danno un contributo molto significativo alla vita buona del paese. Quindi la mia idea è ripensare la giusta aconfessionalità dello Stato, non nei termini di una distanza e nei termini dell'identificazione di uno spazio buio in cui tutte le vacche sono nere, ma nei termini di creare condizioni perché questo confronto tra soggettività religiose o mondovisioni pubbliche possa essere efficace, così che diciamo nei fatti il grande dono che la verità ci fa, perché come dice il grande Agostino è la verità che ci cerca e ci possiede e quindi ci lascia totalmente liberi, questo grande dono possa essere fecondo. Quanto lei dice poi circa la situazione gravissima in cui versa la libertà religiosa in molte parti del mondo, è vero che noi europei siamo in questo senso molto fermi, ci sono ricerche e denunce molto accurate che gettano allarme, perché già nel 2007 si parlava di 123 paesi in cui la libertà religiosa era limitata, e questa è una cosa molto molto grave, ma lei qui tocca il problema, secondo me, dell'Europa in questo momento e anche del nostro paese. Purtroppo un continente fermo sui suoi talloni a guardare l'ombelico, un continente che invecchia. Esattamente, io dico sempre ai giovani, noi siamo quelli che seduti alla sera in poltrona con whisky in mano, guardando la tragedia che sta succedendo in Siria o che si ripete in Terra Santa, buttiamo lì i nostri due giudizi e così abbiamo risolto il problema. Allora la riflessione sulla libertà religiosa che sta in cima alla scala dei diritti può essere una occasione seria e serena, io non intendo fare nessuna polemica, quindi le applicazioni del mio discorso di ieri, che aveva un orizzonte largo, a dati localistici, sono del tutto fuori posto. Ma se noi ricominciamo a pensare alle radici profonde e alle cose che contano nella nostra vita, forse ritroveremo anche quell'energia che ci è domandata per stare realmente sulla scena del mondo, di cui abbiamo bisogno anche per uscire da questa situazione di stallo in cui particolarmente versa il nostro paese. Mi piace molto questa conclusione che fa della riflessione sulla libertà religiosa, della fatica che abbiamo fatto per metterla al centro della nostra idea di consorzio civile e del rapporto tra lo Stato e i fedeli, come nuovo impulso per saper stare sulla scena della storia. Questo penso che sia una delle letture più giuste del discorso per Sant'Ambrogio che Sua Eminenza Angelo Scola ci ha regalato ieri qua a Milano, e io sono grato per essere stato con noi anche oggi, quest'anno. Sono con io noi. Riconoscente per la sua attenzione, saluto di cuore lei e i suoi ascoltatori. Buon lavoro e grazie. Andiamo alla notizia del giorno, notizia che ieri Tony Truante riesplosa sulle volte del cielo italiano, si è risvegliato dopo un anno in cui, contemplando il cielo, ha tratto le conclusioni che il cielo era più impotente di sé e che egli, lui, Silvio, è il più potente di tutti. È tornato in pochi minuti via il vortice, come il vento che abbatte le foglie dagli alberi d'autunno, così l'Italia è risprofondata nella crisi, nello spread, nel disprezzo del mondo, ed è il trionfo di uno che evidentemente non ha più di sé neanche la possibilità di guardarsi allo specchio, perché ci vuole tutta la mancanza di intelligenza del mondo per un così trionfalmente autodissolutorio rientro sulla scena come quello di Silvio Berlusconi. E che dire? E che dire di questo frinire come di cicale d'estate, tutti in fila, di quelli del suo partito, tranne pochissimi, pochissimi sia loro onore, qualunque sia la ragione per cui lo fanno, ma insomma alcuni come Cazzola, come Giorgia Meloni, come Frattini, come Pisano, dicono no, guarda, sì, per favore risparmiaci questa ennesima stupidaggine, ma tutti gli altri, tutti gli altri, come se fosse riapparso il sole dalle nubi. Allora, questa cosa ha a che vedere, purtroppo c'è poco da scherzarci, perché l'eterno ritorno è sempre uguale, con una sconfitta certa, è quello che naturalmente purtroppo torna di questa vicenda agli occhi. Che cosa torna di questa vicenda? Breaking news. Interrompiamo brevemente la trasmissione di Oscar Giannino per una notizia che arriva dal Giappone, appena battuta dall'agenzia. Una forte scossa di terremoto magnitudo 7.4 è stata registrata oggi nel nord-est del paese. Le autorità hanno lanciato l'allerta tsunami. Vi faremo sapere qualcosa di più nel prossimo GR, nella prossima edizione. Linea Oscar Giannino. Del GR, grazie colleghi del GR per questa tempestiva interruzione, speriamo bene. Del resto, anche il sisma, no vabbè, questa è una battuta eccessiva, però guardate che la mia ironia sul ritorno di Berlusconi, sulla crisi, sullo spread e sui mercati è un'ironia molto amara, perché la sesta ricandidatura di Berlusconi che susciti nel suo partito, nella sua cosa di plastica lì, questo tipo di reazione è terribile. Il fatto che si rivolti con il Porcellum, il più colossale regalo tra l'altro a Bersani della storia dell'umanità, voi capite, un inabissamento preciso, gente che preferisce suicidarsi senza onore, ma non senza onore perché combatte, perché si arrende alla propria impotenza conclamata, e che fa? Regala il Porcellum al PD, al partito della patrimoniale. Quanto può essere delittuosamente amara la difesa di un'impresa, quella di Berlusconi, che va a fondo e dai processi dai quali si deve guardare. Io trovo tutto questo terribile, però naturalmente può essere che sia troppo amaro, eccessivo, come qualcuno di voi già inizia a rimproverarmi, d'accordo, può essere. Sentiamo le telefonate. Io vi garantisco che nelle telefonate non c'è nessuna scelta da parte nostra, ricordo a tutti che sono le nostre centraliniste che prendono nome, cognome eccetera, non c'è mai nessun criterio, io non c'entro niente con la scelta e non ci sono filtri, quindi non vorrei che pensaste che sto mettendo in atto, io non nascondo le mie opinioni, non ve la nascondo da due anni su questa roba di Berlusconi, ma le opinioni vostre sono libere. Sentiamo la telefonata, cominciando con Fulvia da Roma. Prego Fulvia. Buongiorno dottor Giannino, l'ascolto sempre quando posso, condivido il 99% delle cose che dice. Volevo dire semplicemente che secondo me la tragedia vera è che ci sarà anche qualcuno, spero pochi, che lo voteranno. Capisco che lui, malato, tutto quello che si vuole, abbia queste azioni di tornare, perché altrimenti sarebbe una rovina. Capisco i suoi quelli che lo circondano, che hanno tutto l'interesse, ma la tragedia è che alcuni cittadini, spero ovviamente pochi, lo voteranno ancora. E questo dimostra quanto è corrotta la nostra società e vanificherà tutti i sacrifici che sono stati fatti in questo anno. Lei ieri ha elencato tutte le persone che si sono suicidate per disperazione. Questi non hanno nessuno scrupolo. Ci hanno rovinato, non gli basta ancora. Ripeto, secondo me il dramma è che qualcuno lo voterà. Vediamo quanti, Fulvio, vediamo quanti. Sentiamo Alessandro da Firenze. Prego, Alessandro. Sì, salve. La mia considerazione era questa, una cosa mi ha sempre colpiso. Negli stessi giorni in cui i nostri soldati morivano in Afghanistan, basta andare a vedere le cronache, assistevamo alle feste di Berlusconi e tutti i suoi accoliti nella sua villa di Milano. E questa è una cosa che mi ha sempre disgustato nel proporzionale. Nel vedere come uno statista, una persona che si reputa un grande politico, in realtà possa pensare veramente proprio di pancia. E poi un'altra cosa, se per caso, veramente speriamo che non avvenga, dovesse diventare un'altra volta Presidente del Consiglio, il giorno successivo avremo tutte le energie della giustizia impegnate per tutti i suoi politici impegnati a difenderlo da tutti i processi in corso, passati e futuri ci saranno. E sinceramente speravamo che questa fase fosse finalmente finita. Ma Alessandro, io temo che ci sia un qualche collegamento tra quello che sta succedendo e il disegno di legge sull'incandidabilità dei condannati, che infatti il governo ha stentato molto a portare avanti e adesso aveva fatto un passettino avanti. Guarda caso cade subito la mannaia. Sentiamo Pierluigi dalla provincia di Ancona. Prego Pierluigi. Buongiorno Oscar e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ma io sono stato sempre un elettore di destra, lo confesso, ma ho perso il lavoro nel 2010 quando il presidente Berlusconi diceva che l'Italia non avrebbe avuto la crisi, l'Italia se la sarebbe cavata bene, ne saremmo usciti meglio degli altri, bla bla bla bla bla bla. E dare un po' di buon ottimismo, infondere ottimismo nella gente va bene, prenderla in giro no, perché abbiamo visto purtroppo la crisi è arrivata, morderà e nella totale indifferenza di questa classe politica. Berlusconi ha avuto penso 18 anni di tempo per risolvere alcune cose, ma alcune ne ha fatte, molte altre le ha lasciate nel cassetto. Penso che possa bastare. Oimè. Sentiamo Franco da Alessandria. Prego Franco. Pronto, buongiorno. Ma secondo me la colpa più grossa è degli elettori di sinistra che hanno scelto Bersani invece che Renzi. Perché con Bersani intanto abbiamo di fronte un Monti bis. Quindi a quel punto, che ci sia il Cavaliere, che ci sia qualcun altro, il risultato è già scontato. Ma però capisci che così diventa ancora più scontato? Così la vittoria del Partito della Patrimoniale, per chi la pensa come me, cioè si batte davvero da anni dicendo un'offerta diversa e non riusciamo a metterla in piedi, sai perché? Perché i grandi gruppi imprenditoriali alla fine aspettavano che tornasse in campo Berlusconi, perché uno ci mette la faccia, dopodiché scopre, si sbatte da 3 mesi come sto facendo tutte le notti in giro per l'Italia e così via. Per carità, nessun merito, chiederò scusa, ho sbagliato, ma prendetevi Berlusconi, cosa volete che vi dica? Per chi la pensa come me, cioè crede davvero che si possa fare meno debito pubblico levando gli attivi patrimoniali dallo Stato e non con la patrimoniale, che invece Bersani imporrà e come dici tu diventa ancora più ovvio e obbligato grazie a questa ennesima follia dei berlusconiani che hanno preso i voti per 20 anni dicendo meno spesa, meno tasse, meno debito e hanno fatto più spesa, più tasse, più debito pubblico e ancora torna in campo e i suoi che scodinzolano uggiolanti e come dici tu hai perfettamente ragione, il risultato sarà uno, primo, che chi ha le idee come le mie è ancora più dileggiato, anche se ci ha messo la faccia, un tentativo inutile, lo dico con grande amarezza, avversato anche dagli amici, come no, perché tanto sono i primi poi che ti avversano. Però detto questo, quello che conta per il paese è quello che hai appena detto tu. Non credevo di poter assistere a questo assist così autosuicidario in cui per perdere qualche voto in meno che verrà utilizzato a difesa di un'azienda che imbarca acqua, quella del Cavaliere, cosa si fa? Si regala l'Italia o si tenta di regalarla, perché magari poi il PD commette qualche errore e non riesce a prenderla, ma si tenta di regalarla al partito della patrimoniale. This is the end, my only friend, the end. eccoci qua, ed eccoci qua. This is the end, davvero. Ed è un eterno ritorno alla fine, questo lungo, continuo, impossibile tentativo di Berlusconi di apparire e di essere immortale. Sta lontana ombra di una rivoluzione tradita fin dai suoi esordi, per così dire. Sì, sì, molti mi rimproverano di essere molto duro. Sì, sì, però vedete, ci sono diversi ABC nella vita, uno deve tenerli sempre sotto mano. Ecco, l'ABC della politica è quello di saper distinguere la retorica dall'imbroglio. La retorica c'era all'inizio, è diventato un imbroglio presto, adesso è diventato semplicemente la caricatura di un imbroglio. Credo che si debba dirlo con grande durezza, tanto più se hanno principi liberali come i miei. Capisco che chi sta dall'altra parte possa sorridere e poi incassare il risultato, perché poi l'Italia è così, che i fessi hanno dei principi, no? I furbi hanno solo dei fini, non sto dicendo Gianfranco, sto dicendo i fini, le mete, per così dire. Allora, sentiamo Sergio da Monza. Eccoci. Non è stata mai così azzeccata la canzone dei Doors questa mattina. Ah, sì. Io rimango perfettamente allineato come lei sulla disperazione, sull'essere allibito di quanto accaduto ieri. A me mi hanno dimezzato lo stipendio, a mia moglie rischia il posto di lavoro, le persone che ci hanno condotto fino a qui si ricandida con proposte che sono del tutto inaccettabili. Finalmente potremmo gioire di uno spread basso, di avercela fatta, che i sacrifici erano serviti a qualcosa, e infine arriva questa persona che si ricandida. Ma la cosa più grave è che ci sono un branco di pecoroni dietro a lui che fino ad oggi, fino a ieri non avevano detto nulla, che insieme non votano una legge e vogliono far cadere il governo. È sconvolgente tutto questo, e io trovo un grandissimo senso di disperazione. Trovo un grandissimo senso di disperazione anche nel vedere la sinistra che si dice pronta alle elezioni. Ma per forza, guarda che quelle incassano, siamo sempre lì. Si incassano col porcellum, cioè Berlusconi ci riregala le liste bloccate per i suoi camerieri e per dare il 55% della Camera al partito della patrimoniale. Roba che bisognerebbe scendere nelle piazze e non spaccare niente, per carità. Ma veramente organizzare una roba per cui dovunque si rifugi la notte bisognerebbe impedirgli di dormire. Perché è la cattiva coscienza di una sentina della Repubblica, non di uno statista. Maurizio da Verona, va, è meglio che non mi faccio querelare oggi, ci manca solo questo. Maurizio, prego. Sì, pronto? Dica. Dici, Maurizio. Ci senti? No, Maurizio, ma non ci senti. È questo, io ho un'azienda con una succursale in Polonia. Hai un'azienda con una succursale in Polonia, che non si sente bene. E sorridendo mi dicono... Berlusconi game, is reality or PlayStation, video game? Ecco, in Polonia ti dicono, ti chiedono, scusa Maurizio, ma dobbiamo levare il collegamento perché non si sente bene, ti chiedono se è un videogame il ritorno di Berlusconi, e non è un videogame purtroppo, no, è un B-movie all'italiana, è una tradizione di quelli che si facevano un tempo, quelli con le tette per capirci, tanto per rimanere nel genere di Berlusconi. Luca da Genova, prego Luca. Direttore, buongiorno. Io per il mio poco politichese, per quello che capisco, ci vedo dietro una bella strategia come al solito per lavarsi tutti quelli che sono i suoi processi in corso, perché in fase di elezioni si sa che magari la magistratura rallenta, e poi una tattica per far sì che il PD vinca a mani basse, non riesca a fare a portare avanti l'agenda Monti, che sarà quello tanto il programma da portare avanti, e lui potrà dire: avete visto che la sinistra è andata a catafascio, ci ha mandato ancora di più in difficoltà, e sarà la sua classica strategia per votare un comico, tanto vale votare Grillo, l'ascolto per radio. Luca, anche su questo devo dire, comunque devo dire, Berlusconi è di una coerenza spaventosa, cioè è di una coerenza naturalmente ai suoi principi, quindi rimanendo fedele ai suoi principi lui non crede a quello che dice, perché questi sono i suoi principi. Lorenzo da Catania, prego Lorenzo. Oscar, buongiorno. Sì. E io veramente non so dov'è la notizia. Mi sembra naturale che Berlusconi dovesse tornare in campo. Perché non avrebbe dovuto farlo? Lui sicuramente potrà contare su, non so, un buona percentuale di voti che gli permetteranno di entrare in Parlamento a lui. E io avevo detto ai suoi amici, lei ha detto ai suoi camerieri, insomma, non posso che approvare. In questo modo lui entra in Parlamento, si fa il suo scudo per i suoi piccoli problemi. non avrà nemmeno l'onere di dover guidare il governo. E tu dici, è un'operazione win-win. Ecco, la freddezza di Lorenzo, che in questo devo ringraziare, prevale sulla mia, che invece è accalorata e incazzatura. La freddezza di Lorenzo rende perspicuo il motivo del gesto. Hai, purtroppo, per tutti quanti noi, ma perfettamente ragione, Lorenzo. Ci guadagna solo Berlusconi. Certo, se i topolini accorrono dietro il pifferaio, sono loro stupidi. Ma lui, in quanto pifferaio, un po' in difficoltà, difficoltà crescenti, ci guadagna solo. Hai proprio ragione. Simone, dalla provincia di Ancona. Prego, Simone. Sì, salve, buongiorno. Sì. Oscar. Più che altro la mia esperienza. 15 anni che non voto, ne ho 37. Tolti i primi anni da incoerente che andavo per bandiere. Poi 15 anni sostanzialmente, scusi il termine, per non farmi prendere per il culo, no? Sì. Perché votare delle persone che sostanzialmente sai che portano a... E adesso ci andrai o non ci andrai? Perché si sente male anche con te, ci andrai? Adesso ci andrò. Per votare Grillo, capito bene? Sì. Simone, purtroppo, che vuoi che ti dica, capisco anche te. Qui se una cosa diversa per legittimare meno Stato, meno tasse, con un po' di soldi per farsi vedere non si riesce a fare, capisco che volete che vi dica, certo. Costantino da Genova. Sì, pronto, buongiorno. Eccoci. Niente, la mia idea è questa, che il problema secondo me non è Berlusconi, perché comunque c'è comunque una voglia di essere rappresentati, e in questi 12 mesi nessuno è riuscito a rimpiazzare Berlusconi, purtroppo. Cioè lui scende in campo, ma nessun altro ha dimostrato di poter essere un leader. Costantino, di un partito di cui uno paga i conti, chi si può candidare a guidarlo? Al di là che Alfano non è certo questo grande mister coraggio. Costantino, capisco, tu dici meglio lui di niente. No, meglio niente, perché lui viene meno alla credibilità di quei valori che sono i miei, ma io li voglio fare, non il contrario per i cazzi miei come ha fatto lui. Comunque, non ci intendiamo, appuntamento a lunedì.